tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'Inter respira in Coppa ovviamente dopo la vittoria sul Twente che l'ha qualificata con un turno di anticipo agli ottavi di finale, ma in campionato comincia a chiedersi, visto che sino a ieri c'era altro a cui pensare, comincia a chiedersi chi giocherà a partire da domenica, vista la squalifica di Eto'o. Avrà pure chiesto scusa, ma le sue 3 giornate adesso se le fa, ed è un problema che l'Inter si dovrà porre già in funzione della tarda mattinata della domenica, visto che c'è l'anticipo domenicale alle 12.30 a San Siro contro il Parma, e visto che Pandev anche ieri sera ha confermato che in questo momento la porta proprio non la vede come Snyder del resto. Ora Milito continua a essere infortunato, Coutinho pure, Eto'o l'abbiamo detto, resta soltanto Pandev, e quindi si tratta di vedere come Benitez riuscirà a organizzare un attacco in queste, nelle giornate. Eto'o è squalificato in campionato fino a tutto il 2010 in realtà, complice anche il fatto che l'Inter salterà 2 partite per la finale intercontinentale, e quindi questo è un bel problema, anche se è più facile affrontarlo dopo la qualificazione in Coppa di ieri sera. Il commento, per non sentire sempre le solite voci, potremmo sentire quella di Castellazzi, che comunque la sua parte l'ha fatta soprattutto nella fase di sofferenza a fine primo tempo e in particolare nel finale di partita. Ho fatto la mia parte come tutti i compagni, è stata una partita fondamentale penso per il nostro anno, c'era bisogno di un risultato importante, siamo passati, quindi penso che sia una serata da ricordare. Era un momento difficile generale, di risultati soprattutto, quindi avevamo tutto da perdere. Penso che la prestazione sia stata eccezionale, perché comunque il risultato magari non rispecchia tutte le occasioni che abbiamo avuto. Di conseguenza abbiamo archiviato una qualificazione che in questo momento, a livello anche di morale e consapevolezza dei propri mezzi, ci può dare un grande aiuto. I numeri di questa giornata parlano, la quinta giornata dei gironi di qualificazione in Champions League, parlano di 45 gol, quindi siamo in piena linea con, pensate che al primo turno 44, al secondo 42, al terzo 43, al quinto 45, soltanto al quarto turno c'è stata l'eccezione di 53 gol. I gironi sono 2 definiti del tutto, quello con Chelsea prima e Marsiglia secondo, e con Real primo e Milan secondo, ma quasi tutti gli altri sono abbastanza delineati. Quello in cui c'è tutto da decidere è il girone H, dove lo Shakhtar Donetsk ha 12 punti, l'Arsenal e il Braga 9, e sarà decisiva l'ultima partita favorevole all'Arsenal, in teoria almeno, che sfida in casa il Partizan, che è ancora a 0 punti. 3 vittorie su 3 per le italiane in questa giornata, non accadeva dalla bellezza di 4 anni. Il bottino pieno complessivo quel giorno di ottobre, 17 e 18 ottobre del 2006, Inter-Spartak Mosca 2-1, Olympiacos Roma 0-1, mentre il Milan aveva vinto in Belgio sul campo dell'Anderlecht sempre per 1-0. Il bentornato affettuoso a Giovanni Galeone. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Senti, io comincerei dal tuo discepolo Allegri, perché adesso poi mi correggi se sbaglio, ovviamente mi sembra che sia uno di quei casi, quello di Allegri quest'anno al Milan, in cui la mano dell'allenatore si sente come si direbbe, a vederlo, un Milan in piena mutazione genetica, no? dal punto di vista delle caratteristiche, no, non più palleggio ma combattimento. L'altra sera ho visto e ho contato parecchie palle in tribuna, i tre mediani. È una scelta indubbiamente coraggiosa, è una scelta forse inattesa, conoscendo anche il gusto per l'estetica che Allegri in parte ha ereditato da te. Che ci dici? Ti dico questo, secondo me è abbastanza logica, perché non è vero che Allegri non sia un esteta, per carità, lo è stato e ha giocato quasi sempre con il centrocampista centrale, un uomo dai piedi buoni eccetera, lo aveva anche a Cagliari con Conte. Elegante, quindi, testa alta. Alta e compagnia bella. Il discorso è questo, che il Milan da 6 anni a questa parte, 6-7 anni, ha avuto una filosofia di gioco, un gioco fortemente caratterizzato da un grande possesso di palla. Lo stesso presidente diceva, quando questa squadra va in vantaggio deve poi nascondere la palla agli avversari, che è un'antichissima legge del grandissimo maestro Lidl. Certo. Ora Allegri invece suggerisce delle soluzioni offensive più immediate, con delle verticalizzazioni e soprattutto con l'inserimento dei centrocampisti. L'uomo determinante di quel Milan di sei anni, che dettava tutti i tempi, che faceva le cose, eccetera, eccetera, è Pirlo, ed era Pirlo. Certo. E quindi è probabilmente la persona che più degli altri ha risentito di questo cambiamento che desiderava l'allenatore. Non che non lo sappia fare, ma certo, evidentemente uno che gioca per sei anni nella stessa maniera è più difficile rientrare in un altro tipo di gioco. Paradossalmente ti dirò che è più difficile andare in una squadra che ha un gioco e cercare di modificarlo che non andare in una squadra che gioco non ne aveva per niente e proporne uno nuovo, tipo, non so, Del Neri alla Juventus. Certo, pensato per non far nomi. Ecco. Ecco. Perché tu sei abituato a non far nomi e quindi è per questo che noi ti ascoltiamo volentieri. Hai detto Pirlo. Ma non perché Pirlo, capisci? Pirlo è l'uomo ideale per il tipo di gioco che ha fatto per sei anni, certo, che ormai lo ha mandato a memoria e gli riesce un po' più difficile. La stima per Pirlo persona e per Pirlo il giocatore è indiscutibile da parte mia, per carità. Sì, sì. Quindi quando rientrerà Pirlo e riuscirà a cancellare un po' quello che era l'andazzo di prima, Pirlo sarà non utile, ma utilissimo. Non c'è dubbio. No, ma io metto l'accento su Pirlo perché tu ci hai detto due mesi fa a questi microfoni che se il Milan voleva giocare in una certa maniera, come secondo te ti eri più o meno immaginato, probabilmente avrebbe dovuto rinunciare a Pirlo. Ora, dato che nelle ultime quattro partite è successo, un po' per scelta e poi per infortunio, quattro partite più quella di Auxerre e sono stati 12 punti più 3, allora diventa inevitabile constatare che avevi visto abbastanza lungo, che l'avevi detto a noi e che magari l'avevi anche soffiato al tuo allievo Max, non lo so. No, non lo avevo soffiato. Non esageriamo. Non parlo di queste cose qua, non mi sembra neanche opportuno, mi sembra indelicato parlare. Certo, e anche adesso dire io l'avevo detto. Io avevo fatto solo un ragionamento di questo tipo qui, non per altro, capito? E poi a me da una vita piace quel mediano che è Flamini, ma lo dico non da adesso, di questo lo dico da 3-4 anni, che secondo me in Italia ha fatto molto meno di quello che potrebbe fare, tutto qui il discorso. Certo. Senti, Gale, siamo partiti leggermente in ritardo anche oggi, non per colpa tua, nemmeno mia. Allora è già ora di fare un intervallo. Non ti muovere, che sentiamo come va sulle strade. Rieccoci in compagnia di Giovanni Galeone, compagnia davvero piacevole, non è il caso che ve lo sottolinei. Ieri facevo un ragionamento che un paio di ascoltatori intervenuti subito non hanno molto capito. Io provo a rifarlo a te, magari non lo capisci nemmeno tu, e allora a quel punto comincio a preoccuparmi. Che è questo? Io credo che Allegri abbia imboccato una strada molto coraggiosa e discretamente, non dico pericolosa, ma insomma con qualche insidia. Perché? Ma perché il Milan è tradizionalmente una squadra che l'abbiamo detto anche all'inizio, no? che il gioco, l'estetica, moduli, le raccomandazioni del presidente, i suoi dogmi di schieramento offensivi, eccetera, eccetera. Ora, una strada, non dico contraria, ma una strada certamente diversa come quella che Allegri ha imboccato, io credo che debba essere, che abbia bisogno di risultati più ancora dell'altra, perché sennò si presta immediatamente a un'accusa quasi di eresia calcistica. Mi segui? Doppia. Sì, certo che ti seguo, doppia, perché mancanza di gioco e mancanza di risultato. Finché manca il risultato e il gioco, dici, ma almeno c'è il gioco. Se certo. Dici, il gioco non mi piace tanto esteticamente, il risultato non viene, chiaramente è doppio. E dopo diventa dura. Pericolo. Certo, io lo capisco, ma mi sembra facile, mi sembra strano che non capiscano le persone a cui hai cercato di spiegare, insomma. Sì, sì. Sì, non è semplicissimo, sai, avere... Senti, vabbè, ma comunque, a parte questo, questo secondo me significa che non solo Allegri è un bravo allenatore, ma anche ha un fior di caratterino questo signore, perché tu lo vedi tutto a modino, tutto ben pettinato, adesso è ben pettinato, prima, però mi sembra uno che di carattere non manda un altro. No, è un ragazzo che ha una forte personalità e ha carisma soprattutto. Si sa fare intendere quando parla, è una persona, ti assicuro, l'ho avuto io 8 anni che ero giocatore, poi avevo proposto come possibile allenatore anche dell'Udinese quando ero lì, ma poi è cambiato, vabbè, comunque lui anzi adesso un pochino, quando va alla televisione eccetera, è un pochino cambiato, è un pochino educatino, educativo. È molto tranquillino, sì, molto tranquillo. Di solito è un pochino più spregiudicato, diciamo, anche nelle affermazioni, nel dire le cose, adesso è molto controllato. Lo vedo un po' troppo controllato, diciamo, ecco. L'unica cosa in cui è cambiato, però lui ha una forte personalità, questo di sicuro. Senti, a proposito di Ammodino, di controllato e di parole misurate, io questa cosa te la probabilmente tu la sapevi, io ho fatto un saltino sulla sedia perché l'ho letta 2-3 giorni fa. Allegri ebbe un paio d'anni fa una disavventura che adesso finirà però in un processo, perché lo fermano una mattina i carabinieri dalle parti di casa sua a Livorno per contestargli un sorpasso su striscia continua. E lui lì ha un tantinello sbroccato, insomma, con questi carabinieri, no? Le Brigate Rosse non avevano poi così sbagliato tanto con voi, io vi faccio perdere il posto, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, proprio una sbroccata in piena regola, ripeto, che gli costerà un processo. E non era nemmeno la prima, perché poi hanno trovato un precedente di qualche anno prima, sempre di questo genere. Lo ritrovi nel giocatore, insomma nella persona che tu hai contribuito ad allevare, o questo è un fuori programma che non... È un fuori programma di cui non sono assolutamente a conoscenza, non ho mai parlato, né Allegri me ne ha mai parlato, e mi coglie, ti dico, di sorpresa, perché è un ragazzo che so che in macchina corre abbastanza, come corrono in tanti, insomma, ogni tanto, quando si può, senza esagerare, però non che facesse queste cose di questo genere, assolutamente. Insomma, non è da lui dire io te la faccio pagare, robe così, proprio non lo vedo in questi panni. Si vede che lo conosco. Ciascuno di noi deve avere un po' di Jekyll e un po' di Hyde, no? Perché questo è un... È un episodio vero, cioè tutto questo era, insomma, gli hanno contestato una multa che sarebbe stata di 36 euro. Quindi voglio dire, c'è di peggio nella vita. Lui è partito con queste ingiurie il 12 maggio di 2 anni fa, e adesso appunto ci sarà un processo. Hanno trovato un precedente sempre di tu stai zitto Terrone, io ti faccio perdere il posto, eccetera, eccetera. A parte che Terrone da un livornese già si può discutere, dimmi come ti chiami, dimmi dove abiti, ti mando qualcuno sotto casa, insomma, non robette leggere. C'è un processo alle viste, vedi che non si finisce mai abbastanza di conoscere persone, e comunque questa fai fatica ad accoppiarla proprio con quella persona a Modino che vediamo davanti alle telecamere, che vediamo elegantissimo anche in panchina, vediamo elegantissimo in campo, e che tu stesso hai detto semmai adesso lo trovo un po' troppo controllato, no? Ma sì, ma non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere, sai, io dovrei andare con Mitra, a me hanno tolto i 56 minuti, i 25 punti. E quindi? Dovrei girare come, non so, no, ma non lo so, ma guarda che ha dell'incredibile per me, ti assicuro, eppure, veramente di sorpresa. Eppure insomma, le fonti sono inoppugnabili. Senti, torniamo a questa, al calcio, questo paio di questa chiacchierata di un paio di mesi fa, ne avevi detto un'altra delle tue, insomma, fuori dai denti, quando ti avevo parlato di Juventus, mi avevi detto che con la difesa della Juventus, e in particolare con un giocatore che gioca esterno destro che si chiama Motta, insomma, ci sarebbe stato qualche problemino. A parte che mi pare che la Del Neri se ne è accorto per tempo, no? E sta giocando un ragazzo di 18 anni che mi sembra molto interessante. Ecco. Ragazzo di biondo, sì. Ecco, dato che questo ruolo, non dico di profeta perché sennò poi mi mandi a quel paese, ma insomma questo ruolo di anticipatore, secondo me ti è tagliato su misura. Che cosa vedi in giro che ci puoi raccontare adesso, nel bene o nel male? Ma sai, nel male c'è da raccontare un po' di anni di calcio che vedo adesso che finalmente stanno riscoprendo antichi, tra virgolette, valori. Sì. Adesso non so, per anni il calcio lo hanno abbruttito. L'hanno abbruttito inventando termini, cioè inventando prima il tornante. Sì. Quando parli di tornante, io vedo il Puy de Dôme, il Monti, che ne so, quella roba lì, vedo, certo, i turisti, vedo le corse in salita delle macchine. Poi hanno inventato l'esterno basso, l'esterno sì. alto, senza dirci che patente bisogna avere per diventare esterno alto. A proposito di patente. Dovevamo chiamare il povero Fabrizio De André, il grandissimo Fabrizio, che ci facesse una canzone, certo. di quella del magistrato. Sull'esterno basso. Avere un metro e mezzo di statura, no? Come no? E giocare esterno, ecco, quello lì. E capisci, hanno modificato il calcio. Adesso, finalmente, riscoprono che il calcio si gioca con i vecchi ruoli. Mm. E allora ecco che le differenze nelle squadre le fanno Kravic, le fa Menes, le fa Di Maria, le fa Lavezzi, le fa Pastore, gente che sa giocare a calcio, che punta l'uomo, salta l'uomo, e senza tante storie mette in condizione i compagni di realizzare. Certo. Allora io rivedo un calcio di un certo tipo, il calcio che avevo visto nei nostri 50 anni di esperienza, che vedevano i Best, che vedevano i Gigi Meroni, Scoulun, Perani, che ne so io, chi ne ha più ne metta, fino a Conti, fino a Riva, fino a Causio, fino a tutti i cali, a Vendrame, che ne so, sì, che tiro sì. fuori, a Rocco Pagano, Ricky Massara, che ne so. I tuoi cavallini del Pescara, certo. Che erano ali, che saltavano l'uomo, che puntavano l'uomo, come ho visto fare Di Maria, per esempio, a Milano, sì. con Real Madrid, eccetera, mm-hmm. e che ti mettono proprio nelle condizioni di vedere giocatori che giocano a calcio. Non queste mezze figure, per cui hanno dovuto inventare dei termini sì. per sopperire a dei giocatori che in realtà erano... che non riuscivano a scrivere. Dei termini delle pippe, delle persone... Piegati nel catasto, facciamo così, va? Mediocri, hai mediocri. Capito? Ecco, allora, cioè. Per i mediocri hanno inventato termini. Una nuovi. Terminologia. Nel calcio non c'entrano niente. Per fortuna adesso, è vero, non abbiamo difensori in Italia, neanche uno. Infatti l'Inter... per 4 anni ha vinto con una difesa fatta con 4 stranieri, con Maicon, con Samuel, con Chivu, con Lucio e la prima riserva a Cordova. Certo. Non è, queste non sono balle, no? Non abbiamo difensori, cerchiamo di stare di nuovo nei difensori e cerchiamo di insegnare nei settori giovanili a giocare a calcio, a prendersi le responsabilità, a cercare... cos'è un dribbling, cos'è un passaggio fatto in una certa maniera, insegnare il calcio. Il e basta con questi numeretti dei 3, dei 2, degli 1, dei 4, 4 e 5 robe, che queste le sanno fare tutti e in 2 minuti si fanno. Gale, scusa la mia... La tua che è una lezione. No, perché un po' mi arrabbio quando vedo queste cose, capito? Perché abbiamo visto un non calcio per anni, prima con questo pressing anche troppo ossessivo, no? Che limitava il campo a una baruffa in pochi metri, in 20, 30, tu allora dicevi, metri. Allora te la prendevi non con Sacchi ma con i sacchisti, se non ricordo sì, male. Ecco, è un po' diversa. Certo. Adesso finalmente vedo che si riscoprono questi giocatori e vedo che la differenza nelle squadre, nella Juve lo fa Kravic, nel Palermo lo fa Pastore, nel Napoli lo fa Lavezzi e Cavani. Certo. Capito? Ecco, questi, no? E portano squadre discrete, mediocre, li portano a un livello alto perché loro sono giocatori di un tempo, quelli bravi, quelli che sanno giocare a calcio. Magari con quella vena di non dico di follia, ma di sregolatezza che è difficile da... sto pensando a Menez, che è un altro di questi, no? Menez è uno di questi, te l'ho nominato sicuramente, certo. Uno dei miei... Cavallini! Sì, uno dei miei pallini. Lo credo. Ma tu dimmi un giocatore italiano, dimmene uno, ti prego. Un giocatore italiano come, non so... come Conti, come Danova, come Causio, come Mauro, come il primo Donadoni, come Domenghini, dimmene dimmi una squadra che ha un giocatore che sa saltare l'uomo. Faccio un po' fatica in effetti, di scuola italiana faccio un po' fatica. Quindi tu vuoi arrivare dove? Vuoi arrivare che dobbiamo smettere di allevare polli di batteria e dobbiamo farli razzolare sull'aia che tornino ruspanti, questo è il concetto. Per forza. Questo è il concetto. Certo. Il concetto è prendere più giocatori che giocano a calcio per dare i termini giusti ai giocatori. Un'ala è un'ala. Un tornante è un affare che si fa in bicicletta, in una salita. Certo. Possibilmente l'estate quanta strada le mie sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Grande. La prossima volta parliamo di esterni bassi e di esterni alti, eh? Tieni pronto e munisciti di antidepressivo in quel caso, ma sto ovviamente scherzando. Grazie Giovanni, un abbraccio. Grazie a te, grazie a voi. A presto. Intervallo, mercati. Torniamo con altri commenti alla vittoria interista di ieri sera in Coppa, che ha scacciato un po' di fantasmi, certamente non tutti, ma insomma non è stata una guarigione completa, è stato un sollievo, certamente. E allora il commento del presidente di Moratti. Toglie peso a tutti, non soltanto a Benitez, adesso bisogna continuare però a far bene. Non è stato male neanche il gioco, le mille occasioni che abbiamo avuto, quindi sì, il carattere era necessario, ma mi sembra che poi si sia svolto bene anche in campo. E poi i giovani hanno giocato bene, Babiani molto bravo, questo Noanco quando è entrato molto bene, quindi Zanetti tra i giovani, fantastico, quindi devo dire. Poi sono contento che abbia segnato Cambiasso, perché anche Cambiasso aveva bisogno di questa soldata. No, ma non sapevo che avessero detto una cosa, no, assolutamente una cosa che non so. No, il giocatore non si permette mai di dire una cosa di questo genere, né io farei in modo di farmela chiedere una cosa così. No, assolutamente, anzi Cambiasso vedevo stasera che si abbracciava con Benitez, quindi direi che è che ha voglia di andare avanti anche lui così. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, scavi la giusta stagione il mio intervento, volevo parlare del fallo fatto da Criscito su Krasic domenica scorsa, che è passato completamente in cavalleria, era un vero e proprio attentato alla carriera di questi calciatori che sono appassionati, come lo stesso Lavezzi, lo stesso Menez, lo stesso Pastore. Se si fanno passare tutti questi falli che fanno a piedi uniti, è soltanto se vogliamo condannare, soltanto se fanno qualcosa di grave. Io voglio dire che è troppo semplice giudicare soltanto quando diciamo che sono emozionato, sembra che è caduto a fagiolo all'inizio, ma dopo si è un po' incartato. Antonio, Criscito ha fatto un fallo di gioco, era certamente in ritardo, è stato puntualmente ammonito dall'arbitro. Krasic per fortuna si è rialzato immediatamente senza conseguenze, al punto che dopo ha, non dico vinto la partita da solo, ma certamente l'ha orientata. E la sciocchezza di Criscito, che era in ritardo in un punto non pericoloso del campo, di farsi ammonire in quella circostanze costare a cara al Genoa, perché dopo Criscito non ha più avuto la fish per entrare, non mica per far male, ma insomma per rischiare qualche contrasto in più su Krasic. Ha dovuto astenersi per evitare l'espulsione, e Krasic giustamente se ne è giovato di questa circostanza. I fallaci in campo sono altri, quello era un fallo di gioco, che giustamente è stato subito sanzionato. Giusto per entrare subito in tema, perché cioè, facciamoci riconoscere al volo che non si sa mai. Giorgio ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini. Allora, volevo complimentarmi per la sua sapienza di parlare di calcio. No, ma lasci stare queste cose, dica subito. Allora, volevo parlare dell'intervista, non ci sono arrivato adesso, ci sono arrivato insomma da subito, questa considerazione di Suarez, quando ho intervistato Suarez, no? Suarez, di cui io sono ammiratore, avendo 54 anni, insomma, può capire benissimo la mia ammirazione da dove arrivi. Però mi chiedevo, ma come fa un giocatore, un ex giocatore come lui, a dire che dopo 45 anni, forse abbiamo avuto 40-45 allenatori, a dire, e dopo devo dire un'altra cosa, a dire che l'allenatore non conta, cioè che è la squadra che gioca. Ma cioè 40-45 allenatori che sono passati e non hanno mai fatto niente, è arrivato un allenatore, lasciamo stare a perdere l'uomo che forse era quello che i giornalisti volevano o preferiscono un Benitez da massacrare come stanno facendo adesso, cosa che Mourinho non si è mai fatto mettere i piedi in testa da nessuno. No, no. Io non lo ammiro come uomo, sia ben chiaro. Giorgio, ma in pratica lei mi sta, non abbia pazienza, perché ho dovuto prendere la tangenziale per seguirla. Lei sta in pratica contestando un'affermazione che Suarez ha fatto a questi microfoni un paio di mesi fa, è giusto? È questo? Sì, che volevo telefonare prima, però dico che lui dice che l'allenatore non conta. No, ma non, è meglio riflettere sulle cose, secondo me. Non, perché? Tanto non passa di moda, no? Sono passati 40 anni. Ho capito il concetto. Allora, secondo Suarez l'allenatore non conta. Non ha detto questo. Ha detto che l'allenatore conta molto meno di quanto comunemente si creda. E contano molto di più i giocatori. Lei non è d'accordo e pensa invece che sia al contrario. E fin qui siamo arrivati. Poi... La prova provata... No, ma lasci stare la prova provata, se no le racconto di nuovo, ma sarebbe la terza volta quella di Oxon la settimana, due settimane fa con Liverpool. Mi dica, aveva altro? E poi, no, sì, volevo dire un'altra cosa. Mi piace, no, che lei chiede a chi le dà del tu se avete mai mangiato insieme, no? Se ha mai mangiato insieme. E poi, io sono fra questi, io sono sempre rimasto corretto nei suoi confronti. Sì. Lei, senza darmi la possibilità di replicare, si permette di dare a una persona di 54 anni del demento. Cioè, chi ha detto? Chi ha detto una cosa? Sta scherzando, Giorgio? No, gli guardi che me l'ha fatto, poi un'altra volta è caduta la linea, non avete neanche richiamato. Giorgio, io non vorrei... Guardi che lei mi ha dato del demente. Ma lei sta scherzando, lei sta... No, assolutamente, vado a vedere qualche registrazione. Ma io vado a vedere tutto quello che crede, momento le sto dando l'emitomane, su questo non c'è nessun dubbio, ma del demente non mi sarei mai permesso, in pubblico. In privato potrei anche pensare di non fare questa fatica terribile, ma in pubblico me ne guarderei bene, non è mai accaduto, non accadrà mai. Vagamente mitomane direi proprio di sì. Stiamo continuando benino oggi, cioè è una pesca miracolosa, mi sembra. Tornerei a Benitez, il suo commento sulla vittoria. Io penso che se un allenatore è in difficoltà è perché la società, la squadra è in difficoltà. Per tutte noi era importante vincere, abbiamo visto l'impegno, il lavoro, l'sforzo dei giocatori, che l'ho visto in altre partite, ma era una partita che si vedeva che la squadra voleva vincere, abbiamo fatto un gol e ancora cerchiamo il secondo, no? Questo per me è molto importante perché alla fine questo carattere può fare la differenza. All'inizio la squadra giocava molto bene quando tutti i giocatori erano di là, adesso abbiamo tanti infortuni che ha visto la fine giocando con le ragazzi, non è facile fare il lavoro e non è facile sostituire i giocatori che l'anno scorso non hanno giocato tanto e adesso sono giocatori fondamentali per noi. Ma non è facile, no, ha certamente ragione Benitez. Ieri sera hanno inquadrato due o tre volte la panchina e faceva quasi tenerezza. C'era questa specie di asilo Mariuccia, no? di giovani con l'aria come la partita andava avanti, queste inquadrature mostravano gli occhi sempre un po' più sbarrati, non dico sbarrati, ma un po' più preoccupati di questi ragazzi, no? Perché passava il tempo e il tuente te lo attaccava. E c'era questo non più giovane istitutore coi baffi in panchina, più o meno a fianco loro, no? Insomma, un pochino spostato, che è Benitez. Insomma, se qualcuno si ricorda la panchina dello scorso anno, quella che magari tolto Balotelli potrebbe anche poi tornare, perché come ci si infortuna poi ci si guarisce anche. Beh, insomma, credo che, no, con tutti quei campioni schierati a fianco di Mourinho, credo che insomma, sia abbastanza inevitabile fare qualche parallelo e forse qualche riflessione. Facciamo un tentativo ancora con Marcello, che ha chiamato da Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Signor Garanzini. Due cose veloci. Sì. Uno, sentendo prima il discorso tra lei e il signor Galeone, sì, riguardo a Pirlo, io mi ricordo, io ho 36 anni, ho visto giocare Pirlo nella primavera del Brescia, per cui sono atalantino, per cui andavo a vedere con la primavera, mi ricordo che lui giocava dietro le punte, cioè non giocava davanti alla difesa. Ma anche debuttato in nazionale così, certo. Esatto, per cui anche nel Milan con Sidor potrebbero alternarsi in questo gioco. Poi nel fatto dell'assenza di un giocatore si diceva i 15 punti fatti, diciamo nel mio, il 4 più 1, no? Con 5 vittorie. Mi veniva in mente che Totti l'anno scorso, quando è stato assente, la Roma ha infilato 7, 8, 9, 10 vittorie di fila, poi è rientrato, hanno perso lo scudetto. Per cui c'è anche da dire che può essere che l'allenatore trovi una formula tale per cui anche determinati giocatori possono benissimo essere diciamo appunto superati dallo schema che usa, sì, usa l'allenatore in quel momento, per cui nel Milan Allegri ha trovato probabilmente la quadra, comunque un'alternativa all'assenza di un grande giocatore. Insomma, è una fase, sono ecco, ciclico. Sicuramente. E l'altra cosa è su Allegri, mi veniva rispetto a quelle due diciamo disavventure che ha avuto con le forze dell'ordine, visto che lui e Livornese forse erano pisani e ha avuto questa veemenza, visto questa animosità tra le parti, mi veniva da ridere perché è veramente una cosa spiacevole quella che gli è accaduta. Sì, come diceva lei, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, come abbiamo visto con Eto'o, è successo la stessa cosa. Ma non è una cosa da Eto'o, bravo Marcello, hai ragione. Bene, mi fa piacere questa telefonata perché, insomma, dato che un ascoltatore, nome Alessandro, ha subito detto che l'unica sarebbe passare all'antidoping preventivo per gli ascoltatori che intervengono, no, se Dio vuole no, perché andiamo avanti così da 11 anni e gli episodi come quelli di prima sono abbastanza rari, ma poi basta, insomma, si arriva a Marcello, per esempio, che chiama da Bergamo e si ragiona e si sentono delle opinioni interessanti confrontandosi in maniera civile. Non sempre accade. Ieri cosa che mi hanno detto? Comunista, ieri mi hanno detto. Sì, ma comunista, insomma, ho sentito di peggio nella vita. Intervallo per le strade. Sentiamo subito che cosa ha scovato per il 25 novembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 novembre 1953. L'Inghilterra subisce una storica sconfitta a Wembley. Il tempio del calcio britannico viene violato dalla Grande Ungheria, che non si limita a vincere, ma impartisce ai maestri inglesi una lezione di calcio. I magiari si impongono per 6-3. Nel ruolo dei mattatori ci sono i Deguti, autore di una tripletta, e Puskas, che va a segno due volte. Per la stampa e gli addetti ai lavori dell'epoca, pur trattandosi di un amichevole, l'incontro segna comunque una svolta storica. Il passaggio di consegne è avvenuto. I nuovi maestri del calcio sono gli ungheresi. Un incontro leggendario che fece epoca, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. In tempi abbastanza recenti un amico e collega di Repubblica mi ha regalato il DVD di questa partita, che ho già visto due volte, l'ho inflitto anche ad alcuni amici, perché è un come eravamo di un valore storico incredibile. Da un lato si apprezza davvero la maestria tecnica e tattica di questa straordinaria squadra ungherese. Dall'altra sarebbe come per un appassionato di cinema che non conosce il passato scoprire immediatamente il film muto, ma il film muto però del livello più alto possibile. Un'esperienza strepitosa, assolutamente. Duilio ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, due cosette. Sì. Io che parla è un ex allenatore di prima divisione, eccellenza così, no? Sì. In una situazione come quella del signor Mourinho, che ha spedito il portiere di riserva, sì, noi nel nostro modesto mondo dilettantistico si faceva partire il massaggiatore con la sua spugnazza, andava vicino al portiere, fingeva di spugnare il ginocchio e intanto gli trasmetteva le notizie. Sì, certo. Questo è proprio stato proprio un pollo, questo signore qua. Certo. Poi, se mi permette, un'altra cosa. La televisione, 90° minuto, ho riscoperto finalmente un termine di Brera, il palafreniere, se lei ben si ricorda. Sì. Io l'ho individuato nel presentatore di 90° minuto che continua a passare l'assist al torvo, al truce, diciamo. Non è male questa, palafreniere. Sì, ho presente il bravo presentatore di cui sta parlando, palafreniere, non è davvero male, è un post, un termine, una cosa post-breriana, insomma, in effetti, non ci sta. Sentite, c'è un bel articolo scritto stamattina sulla Gazzetta da Franco Arturi, che è uno dei vice direttori e che è tra l'altro per me è uno dei pochi punti di riferimento che sono rimasti nella stampa sportiva italiana. Il titolo, a proposito della Murignata di cui abbiamo ampiamente parlato ieri, il titolo scelto da Franco Arturi è una barzelletta sporca. Testo: scandalizzarci con misura, con la consapevolezza che siamo stati il paese di Machiavelli e il calcio degli scandali, però una cosa rivendichiamo fortemente dopo un episodio di antisportività come pochi ne ricordiamo nella sua platealità. Se il vate portoghese Mourinho in avvenire azzarderà, ci ha provato spesso negli anni scorsi, a fare la morale a noi italiani, gli spareremo in faccia una risata a 100.000 decibel, ne abbiamo ogni diritto. Il tutto con leggerezza, naturalmente, senza disturbare quel folto esercito di quelli che usano spesso la parola moralismo come una clava da dare in testa a chi tenta di tenersi cari i concetti arcaici come etica, valori, lealtà. Per esempio, sempre per ridere, pensate alla Spagna, piena d'orgoglio per i suoi nazionali hombres verticales, i ragazzi campioni del mondo, Casillas, Xabi Alonso e Sergio Ramos, che si sono prestati a calpestare in mondovisione la loro dignità di giocatori, sprofondando poi in dichiarazioni di una puerilità cosmica. Non parliamo della tradizione del Real, degli spettatori, dell'Ajax, presi in giro, dell'arbitro costretto a far parte suo malgrado della commedia e poi attaccato preventivamente dal geniale Cosè negli spogliatoi. Tutta una barzelletta. Non sappiamo se Monsieur Fair Play, al secolo Michel Platini, si stia divertendo come tutti noi. In fondo si sta ridicolizzando il calcio e la massima competizione mondiale per club, due cosette alle quali lui dedica la vita. Lui ha la battuta pronta e giudice all'altezza. È il momento di usare entrambe le risorse. Franco Arturi, La Gazzetta dello Sport di stamane. C'è in linea Cosimo da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sì, volevo dire. Il Milan è favorito per lo scudetto, e si sa. Il Napoli sta al terzo posto, va bene. Palermo fa un calcio spumeggiante. L'anti-Milan è la Roma. La Lazio, una sua considerazione vorrei. Per i media e per la stampa, sta lì per caso. Grazie. L'anti-Milan secondo me sono la Roma e la Juventus in prospettiva, a meno che ovviamente essendo l'Inter la squadra più forte sulla carta, a meno che non ci siano guarigioni tipo Lazzaro immediate e collettive dalle parti di Appiano Gentile, ma a questo punto lo ritengo abbastanza improbabile. Credo che in prospettiva sarà un duello a tre, cioè, bello, un duello a tre non è male, sarà una lotta a tre tra Milan, Roma e Juventus, insomma non necessariamente in questo ordine, il campionato è lungo, siamo soltanto a un terzo. Ugo ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, sono Dica. Ugo. Ascolti, sono tanti anni che tento di parlare con lei, non sono mai riuscito, l'ascolto credo da 3-4 anni. Bene. Volevo solamente sapere una cosa, come mai... Benitez è venuto in Italia e non si riesce a vedere il calcio che c'è in Inghilterra. Tanto lui è venuto, l'hanno chiamato Ugo, e l'hanno chiamato, sai qual è il problema? L'hanno chiamato e non erano convinti di chiamarlo, e questo mi sembra già un non ideale punto di partenza. Il calcio che si gioca in Inghilterra non si può vedere in Italia perché sono diverse le caratteristiche, diverso l'approccio mentale, diverso il modo di interpretare il calcio, non so. È un discorso molto lungo, ma io provo a sintetizzarlo in una battuta che ha fatto Ranieri di recente. Nel calcio italiano ci si infortuna anche per lo stress, nel senso che lo stress, come è noto, è un moltiplicatore di fattori negativi, no? Fisici, mentali o quello che vogliamo, e di situazioni di disagio del corpo. Questa è una riflessione che lui ha fatto avendo allenato sia in Spagna che in Inghilterra che in Italia, e credo che sia un parametro di cui è bene tenere conto. Vogliamo sentire Casillas, che a fine partita commenta, a fine di quella gloriosa partita Real, commenta il fatto che gli ordini scuderia di Mourinho sono arrivati tutti a destinazione. Sentiamo. Nos hemos fijado mucho en una serie de órdenes que han ido de Mourinho a Dudek, de Dudek a Casillas, de Casillas a Ramos. ¿Ha sido por la tarjeta, para provocar la tarjeta? No, bueno, de alguna manera ha sido por el tema de cosas, el tema en plan de dentro del campo. Había que dar una consigna a un jugador, y bueno, Jesse ha venido a mi portería y de ahí lo hemos intentado transmitir al resto de compañeros. ¿Ha salido bien? Sí, por suerte bien, dentro de cabe muy bien. Cose di campo, messaggi tra di noi che sono arrivati dalla panchina, ma insomma tutto alla fine è filato molto liscio. Vediamo se filerà altrettanto liscio con l'UEFA. Giovanni da Brescia, buongiorno. Buongiorno, sono in linea, mi scusi che ho spento la radio e sto guidando, non è che niente io... Non faccio la fine di Allegri, se la fermano no, rispetto fermo, per l'arma, innanzitutto. Ecco. Niente, l'antidoping a me lo fanno perché io sono un autista di professione, per cui volevo solo dire questo. Ecco. Volevo solo dire questo, praticamente. Io sono interista da quando sono nato. Sì. Una persona come Benitez preferirei che la tengano all'Inter, al di là che era vincente o non era vincente. La mia più che una domanda era una constatazione. Sì. La ringrazio di avermi ascoltato. Giovanni, grazie a lei. Le persone educate si ascoltano sempre e comunque molto volentieri. Ce ne sono stati un paio oggi, soprattutto uno che mi era sembrati un tantinello diversi, forse anche a voi giudicare dei messaggi. Grazie a tutti, grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.